gli occhi belli d'una fanciulla si specchia il cielo con le accese stelle, e quello sguardo che salve perde ti dà il tormento, la felicità. Amore, amor, non mi tentare, no, non mi tentare. Amore, amore, quale più bella non ti posso dire. Dai laghi alpini al verde mare è un rifiorire, uno sbocciare di bimbe belle innamorate d'un incantevole semplicità. Amore, amor, porti la luce al mondo come il sole, ci fai felici. Diciamo grazie, grazie amore. Viale fiorito di giorni lieti, questa è la strada degli innamorati, che si colora di rosa aurora con mille sogni di felicità. Tentare, no, non mi tentare. Amore, amore, quale più bella non ti posso dire. Dai laghi alpini al verde mare è un rifiorire, uno sbocciare di bimbe belle innamorate d'un incantevole. La luce al mondo come il sole, ci fai felici e ti diciamo grazie, grazie.